Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La scomparsa del denaro contante viene teorizzata da tempo e mai come oggi sembra un futuro possibile, come si racconta in un libro appena uscito e molto affascinante, The End of Money, edizioni La Terza. Ma in un'epoca di quantitative easing, oltre alla smaterializzazione del denaro, all'orizzonte si profila anche la smaterializzazione delle banche centrali, sostituite da algoritmi matematici e procedure informatiche con una politica monetaria predeterminata. Si tratta di frontiera, sì, ma anche di una realtà. Il caso di maggior successo è proprio quello dei Bitcoin, una moneta virtuale peer-to-peer lanciata nel 2009 da un anonimo sconosciuto e la cui massa monetaria, oggi intorno ai 14 milioni di Bitcoin, ha un controvalore di circa 4 miliardi di dollari. È forse la moneta di maggior successo della storia, eppure ha un grave difetto, insito proprio nell'algoritmo con cui è venuta al mondo e che le nuove monete matematiche saranno chiamate a superare. Ne parliamo con Ferdinando Ametrano, analista di Banca IMI e professore all'Università Milano Bicocca, esperto e studioso proprio di queste monete matematiche. Buonasera Ametrano. Buonasera Maurizio. Allora, la comparsa delle banche centrali forse mi sembra un attimo prematura, ma sicuramente un affiancamento concorrenziale. Ma che cosa implica una moneta priva di banca centrale? Implica la mancanza di discrezionalità. Accennavamo al quantitative easing in apertura, ma sicuramente da sempre le banche centrali intervengono sui mercati per garantire la stabilità della loro moneta, contraendo o ampliando la base monetaria con diversi strumenti tecnici, tra cui per esempio la leva dei tassi di interesse. Quando una banca centrale non c'è e quindi la cosa va regolata con un algoritmo, le cose diventano forse da un lato più stringenti, meno elastiche, ma dall'altro sicuramente non manipolabili, non discrezionali. Questa è un po' la scommessa delle monete matematiche, tra cui Bitcoin, che quindi utilizzano un algoritmo al posto della discrezionalità. Ecco, perché alla fine un qualche tipo di regolazione del mercato valutario serve e quindi ci si affida, diciamo, ad un algoritmo. Qual è l'algoritmo di Bitcoin e qual è il suo punto debole? L'algoritmo di Bitcoin è fondamentalmente mimare la progressiva scarsità estrattiva dell'oro, quindi prova ad essere oro digitale, per cui all'inizio è facile estrarre oro, mentre nel tempo diventa sempre più complicato e il contributo di nuovo oro estratto diventa sempre più marginale rispetto all'oro già in circolazione. Sì. Non lo definirei tout court un difetto, è sicuramente una scelta di definizione iniziale che probabilmente per la prima moneta matematica, per la prima criptovaluta, era anche estremamente ragionevole. In pratica, ecco, sostanzialmente la massa monetaria continua a crescere, ma raggiungendo un tetto, adesso il tetto praticamente viene toccato in pochi anni e si ferma lì a un certo punto, no? Si fermerà, ecco, questo cosa implica? 40 a 21 milioni di Bitcoin, sì? Ma di fatto già raggiunge il 98% della massa monetaria nel 2030. Okay. Questo implica che Bitcoin è oro digitale, in quanto oro non garantisce una stabilità dei prezzi. Ci potranno essere in futuro nuove monete che useranno algoritmi più elastici. Ecco, in particolare, scusa, il principale difetto è che questo tipo di regola, diciamo, tende a produrre deflazione, o sbaglio? In questo momento ha prodotto una fortissima deflazione. Che non è bella per una moneta. Forza, si è apprezzata di oltre 500 volte, è sicuramente entusiasmante per un investitore, ma non è entusiasmante per l'utilizzo come moneta, perché immaginiamo di contrarre debiti o di avere salari il cui potere di acquisto possono variare di centinaia di volte, sì, certo, in pochi mesi, al ribasso o al rialzo. Ecco, come si fa a risolvere questo problema? Ad esempio indicizzando una nuova generazione di valute con una politica monetaria elastica che per esempio mantenga la parità del potere d'acquisto rispetto a un paniere di beni individuati. Può essere un paniere di commodity, può essere l'oro, ma insomma un paniere esterno alla tecnologia rispetto alla quale la massa monetaria si adegua, garantendo la stabilità dei prezzi e del potere d'acquisto. Ecco, tendenzialmente questo tipo di moneta non andrebbe né in deflazione né in inflazione, perché in realtà si autoadegua proprio all'inflazione, no? Esattamente, sarebbe un po' il sacro graal dal punto di vista della politica monetaria, perché permetterebbe di avere prezzi assolutamente stabili, né in aumento né in decrescita. Si parla di AIEC Money, che cosa significa? Ma è un riferimento a Friedrich von Hayek, premio Nobel per l'economia, che già dal 1977 immaginava un mondo in cui le monete private competessero fra di loro per garantire la migliore stabilità dei prezzi. Quello che lui immaginava è che le monete sarebbero state emesse dalle banche e oggi vengono emesse da delle comunità peer-to-peer. Una specie di competizione per il miglior algoritmo. In maniera che le persone possano scegliere la moneta più adeguata alle loro esigenze. Grazie Ferdinando Ametrano. A te, buona serata. Ci fermiamo qui, torneremo su questo argomento, ma vi do per intanto appuntamento a lunedì.